Prova Teo, prova, prova. Teo, prova Teo. Prova Teo, prova. Prova, prova, prova. Prova Teo, prova. Ennu! Eiu! Eiu! Cucu! Senti, oh. E chi è? Chi è? Io sono io. Cos'è, Grazia? Sono all'orto. Sto usando i vestiti per farti alzare il fiorellino. Ti ho capito, no? Alza la voce. Ah, nell'orto botanico, sì. Via da te. Buonasera, in TV. Ti saluta Paoletta, allora. Gentisa, no, no, no, gentisa, la famiglia da lontano, cosa ha detto? Ciao Pacchizio. Ciao Paoletta, buonasera, piantando stai? Allora, mi sto occupando di un prato, Pacchizio, un prato in prezzo. Ma lo sai fammi dare l'inglese tu? Fui fui, devi chiamare la figlia del dottore Squalo. E allora, non lo sai che io ti adesso mangio, e tu sei che ti adesso. Ehi, ehi, chiama a Gio Maria allora. Aspetta Gio Maria, iaia. Ha detto grazie che non riceve che cura. Chiama invece a Tore. Ehi. Dottore, prendo un custode, cura del campo sportivo, un racchetta a palle, prendi. Racchetta a palle, prendi. Uia, è una palla edo. Allora, ecco, rimane in giro, al campo, e piglia tutte le palle che ci sono in busta. Andava, sì, sì. Capito. E mai Gio Maria non l'ha portata Gio Maria. No, Gio Maria, tu... la motozappa in campagna, ma la nega un po'. Sicuro che aveva motozappa. Se la motozappa non andava sola, allora sì. Devo fare un numero. Diventa più lagno. Ah, va, è un po' più robusta, ma poi diventa un lumino e non si può muovere. Manco vizzino che passa adesso. Tutto si traverso la paesia. Chi è quello? Aiuto, io l'ho volato anche. Si scritta, va a travagliare. Sentito l'alba. Ehi, ehi, è dormito ancora Luca. Luca, avanti. Ehi, dormito sono, e tu sveglio sì. In campagna. In campagna lui ti ho detto. In campagna. Tutta la famiglia ti ha detto. Andando via tutti i sistemi. A stretti con lo sport. E poi fai la partita di calcio. Vero Bacchi, diglielo su di tutti. Ma ci vuole anche la riserva poi, grazie a. È vero. Non dovevi, Trisi, non dovevi, con riserva. Almeno 5 di riserva deve avere. E allora fa il record 16 e non si rubavi da più. Sapevo. Oh, vai, mi schiaffi, no? Femmine e maschi, figlia la marina, che devi formare una squadra di calcio con la riserva. E facciamo tutte le donne, però non guadagnano le donne come i maschi, vero Bacchi? Quelle guadagnano di più, grazie a, le donne guadagnano più del maschio. Beh, un certo aspetto decideranno. Ehi! Sì, lì ti dà ragione, Bacchi. però devi aspettare. Oh. A 5 stelle. Aiti, a 5 stelle, 500 a 1. Anno da cinema tutti quanti. Che te? C'è di altro che fa vita di femmini. Mettono il night, non te ne fai la vergogna. Bravo attore, bravo attore! Diglielo attore, diglielo. Che stai? Come mai le palle stanno succedendo dal campo, dottore? E vai a ciappalli tu. E ti metti a Mariani di tu. Perché la battuta? Stavi a nascere come una racchetta a fare. Su quel campetto. E io così è, dottore. Buonasera. Bene, buonasera. Senti, sarai la voce del Dio. Dai, grazie. Non risponde Tore, no. Tore! Adesso che non ti sente. Dici la per le orecchie. Tore, vero che non lo senti? Tu stai uscendo a tratti, E chi è che sta uscendo a tratti? Tumbaru! Ma la moto già fa fuggita. Tore! Evidentemente è andata a pigliare le palle lì. Batti. Ehi, è andata a raccattare le palle. Proprio una palla che sua è. Buonasera, Giomarì. Buonasera, Giomarì è caduto. Sta aiutando a Tore. Che cosa prende Tore? Pigliando le palle. Parla bene, però parla bene. Che io sei casa tua qua. Gio Maria. Gio Maria, non lo sento partire. Io lo sento, solo a te sento io. Alecci di meccante in vaso. Bacchi, oggi non ti sento, come mai? Cos'hai fatto, Bacchi? Aiù! Boh! Cazzo, ma il caffè è preso, vai! In campagna sono, Gio Maria, diglielo, grazie che sono in campagna. A staccarmi la bava che ti vede a me, Gio Maria. Ah, beh, ma in safari a te ti fa di mare, e non ti rilassi malissimo a che ti fa di mare. Oggi ti canto una giovagnata, là cazzo la giovampata in bagno, a di su, basta. La Giovanna da vita c'è la scelta, a cribadura. Oggi ti sento a tratti, a te pure. Io sono nell'orto botanico, che sto guardando una paletta, sta piantando i fiorellini lupi. Appunto, malissimo, ti sento a tratti io oggi, Non lo so. Tore, sì, vieni avanti, aiuta, non ti mangiamo. Tore! Ma, possato si è preso. Sì, grazie, un attimo di quel Rix, già riprendo fra un po'. Che c'è un amico qua, dobbiamo discutere un po'. Ci sentiamo fra un po', grazie. Dì a Gio Maria, da quando salgo a casa te lo sento. E delle papere disapportanti. Mi senti adesso? Già ti sento adesso, Gio Maria. Adesso ti sento anch'io bene pure. Gasperini. E mi maravigliavo, cazzo, pacchiare male la sera di tendina e oggi no. Ho detto, pacchino mi sei, pachissimo. In campagna so con Gio Maria ancora, ma tra poco va a passo. Dopo ya sentimmo. D'accordo, mi raccomando, non da rifare, no, che a chi li fa di male, c'è una banduia. Li fa di male di banza, così che non da niri, niri anche che si raccomporeggia. Sì, io che abbiamo fatto pagano per non comprarsi, sennò. Non c'è più di là, che sei facile. Bravo, e così bisogna fare. Per gli amici deve sempre più cara. Chiaro, pensiamo tutto questo. Allora portala tutta la Gio Maria, che Gio Maria ne mangia un bel, ma sì, tanto io baravaccio guzzeccio. No, non c'è bisogno da me. Già ce l'ho, ne ho pure in freezer, ne ho io, così che No, mi serve le baffe a me. Ma quelle sono più buone, la sentita Fabrizio. Va bene, ma li ha già commissionati, Fabrizio, capisco, per cui, Bacchizio, per cui è già... Già tutto a posto, a me non mi può dare per quello, capito? No, ma arrivi, brava, non mi dici, non so cos'è, c'è ancora. Poi, la Giovanni da Burruti, là, sta di soli, chi sta di davanti, c'è la giovampata. Teccio, tu dai il gruppo, ti dai, pagissimo, hai lì. Mi dice la vita da povera, invece, un po' com'è. No, è la Iacosta, la buia, oggi me la fa giusta. E non mi piace assai assai. Tu, altri matti, bacchi. Sì, un attimo di correggio, insomma, li già riprendo fra un po'. Sì, d'accordo. Poi, ha detto Sartore, Azzurra, il Parigi e il Tore, o sei associato? Tore! Tore, abbabbiato, sì. Con te cosa che arrabbiato? Catta, io non si può fare nulla con te. Catta, Gio Mari, sto facendo cosa? Ciao Bacchisio, buonasera. No, sto facendo cosa? Entro dopo, entro. Va bene, ti perdono, va. Vai Gio Mari. Travaglia, travaglia, to, travaglia. Vai, vai, siamo qua. D'accordo. Ah, che Bacchisio è da farato, che si fa sentire dopo. Va bene. Ma vai, trapiantando la stelletta di Natale. Pianta, pianta. No, poi è stata piantata. Ha regato 4 gaccetti di fiori, me suita. Ha detto che si è passata. Ah. Ha visto un negozio di vendere fiori, cosa si chiama? Ha posato. Anche mica un terrazzo non c'è al giro. Capito mia. Ciao Mario. Della 27, grazie, attacca la 27. Che sto confuso. Robby Drom, che ti c'è da un cucco a te. Eia, ero nell'orto botanico. Ehi, mi raccomando, mi raccomando, sappitare a vero, noi siamo i 27 comunque. Ok, ci sentiamo, ciao! Ciao! Ciao, un bacio ai bambini! Che hai detto, UFO? Ehi, dove stai facendo, UFO? Ero nell'orto botanico, non mi hai visto. Dica, c'è tua Maria, c'è, ti sta chiamando, io l'ho sentito qua. Che dormito è? Adesso sono sul 28, sono. Vabbè. Eia, io dal 27 adesso non ci vado. Non ci gioco più. E tu non vai alla 27. Non fa niente. Tutto spento qua, Oh, non la durata. Sono già 17 mesi, mi pongo a pulire la 27 avanti. Oh, tutta la sera non vedo un'anima, tutta allora rimani a. E io stavo facendo un lavoro, da un'antenna stavo piazzando. Ho risolto, da. Mi aveva fatto i scillucci, gà, fa carizzare. Ma ho dovuto fare praticamente tutto libero là. Dal terzo piano a scendere al primo piano. Cioè il piano a terra là. Quale non ho capito? Quella antenna? Quella antenna che vendono alla Bristol, è una scatoletta bianca, la puoi attaccare fuori con due tastellini anche al muro, anche dentro casa la puoi lasciare, e piglia bene da perfino. È una così, è una cosa di bocci di 10 centimetri, è ripigliata da vicino. Di cameretta, e ci vede bene dappertutto. E molto costa? Quella del cinese l'ho pagata 8 euro. Che tipo, per esempio ce l'hai di tipo serradiuri, quelle corse rotonde, ci pare un disco. Tipo così è, e c'ha la base magnifica. E funziona bene il televisore. E quella ce l'ho in cameretta. Invece in salone c'è una scatoletta con il suo attacco, però io l'ho lasciata lì perché prende bene dappertutto, tutti i canali. Quella l'ho pagata 24 euro alla Brito. Invece quella dal cinese che sembra un fitto, 7-8 euro, una cosa del genere. Vabbè, chissà. Purtroppo non è andata bene, a buon fine, perché voleva spendere un tot, ho fatto spendere più soldi, mi ha fatto sprecare più cavo, lasciamo perdere, va. Ormai, caso si faccia, anda e ci aggiungo un pareggia, da Bricome e da Nivoetta, dipende o tu e tu così risolvi il problema. Allora io mi innaggio di lui, no, da parte di cugina, di quelle vecchie antenne, l'ultima l'avevo comprata 10 anni fa, ma quando si faccia mi dici, mi rivolgo e mi compro due di quelle lì come quelle che ho preso adesso. Si vede bene perché le ho provate anche qua in cucina e piglia benissimo, tutti i canali, tutti. Non vai né capo fuori, né antenna, né un terrazzo e si vede benissimo. Vabbè, cioè, vabbè, televisori non ti vai, noi in casa ne abbiamo tre televisori, non li puoi collegare tutti e tre, no? Allora, prima di prendere quella c'avevo il televisore di cameretta di soggiorno, tutti e due con la stessa antenna. Poi per eliminare il filo con gli isolatori che passava sopra al telaio della porta, nel battistoppa, faccio battisco. Ho lasciato solo quella di camera da letto, l'antenna fuori, e quella del salone c'è questa antenna che ho preso là prima. E non ho bisogno né fili, né cavi, né isolatori, né nulla, si vede bene dappertutto. Piglia tutti i canali. E in cameretta ho fatto la stessa cosa, voglio buscare un tubo, uno, far legare la pelle. Ho comprato quella corta quanto ho visto e fa tutto io ho due termini fate altro ma lì basta non chiaro non prendo risulta in via Pasqua e sicuramente non prende con quell'antenna lì. Sì, lo so, grazie, ma è tanto dura l'antenna. Alimentata va. No, capito. Ho detto, se va alimentata. Sì, se va alimentata. bene, lo stesso, che si innaffi, ti sei precollegato. Io ci ho messo quella prolunga, quella giambata, con l'interruttore io spando quella ed è a posto. Sì, vabbè, ma alla fine è come sempre mettere un'antenna, fa le deviazioni e le colleghi contro nel voi. Ma ci un chissà di impegnare 2 euro, no, almeno ce l'ho l'antenna io in camera, non è che isso, va. Vedo tutti i programmi pure io. L'unico problema è che ultimamente sta saltando la Rai. Però siccome c'è un'antenna nuova, uno di questi giorni sa che la cambio. Aspetta un minuto, sto facendo una cosa. E ho detto, con questo lavoro ho preso l'antenna a spese mie, però dice che lì non voleva fare tutti i canali. Allora ne ho preso un'altra, ecco perché ho dovuto fare tutto l'impianto nuovo. Che se metteva le due antenne risolveva il problema. E vabbè, niente, adesso mi è rimasta questa antenna per la Rai e la devo piazzare a casa perché ogni tanto quando c'è il vento saltano. Vabbè, l'antenna è vecchia anche, dai. Se la piazza a casa allora quella, tanto per non perdere. Oh, ma a me pizza canto funziona, ne dici lui, invece le classiche, le lascio. Quando si rompe che non funziona più, mi dà più come te dici. Ui, ci ho pigliato tutti canti come quello che ci dice. E se tu vedi prende tutti i canali, chissà degli inizi, si vede benissimo. E lo ha collegato al televisore da 32, il televisore. E prende tutti, quindi prende i canali. E chissà del salone rimasto, si dice ancora di manne da 50 punti. Piglia tutto quanto. Sì, a te ti viene bene perché sei davanti a Monteolo, no? La gente che è non gli conviene, non prende. Tu sei davanti a Monteolo, a chi marina, di via l'antenna. Mi ha perso la parte in due e piglia tutto l'uomo a testa. Ma io non... queste due non sono fuori, no? Sono tre in casa, le antenne, queste che ho comprato. Ne ho solo due fuori, le classiche, quella di cucina e quella di camera da letto. E sono verso Monteolo. Però quella del salone di cameretta, sono tre in casa l'antenna, mica sono scusa. Ho capito, vabbè, comunque lì non va bene, dai. Io ti sto dicendo, se prendi quella della Bristol, quella bianca, a posto mettere tutti i grandi Rai, il canale Rai e poi quell'altra, metti quella scatoletta in alto, sul tetto dove l'hai messa, e cali il filo, e con quella prende tutto, prende. Non c'è bisogno di utilizzare le antenne classiche, capito? Quello ti sto dicendo. In un minuto vi posso dare le linee e c'è lì a fare i nudi. Non hai capito? Non so chi niente. Incassi il filo, cioè il bussolotto, lo avvisi come le bare i fili del barattino. Poi c'è lo spinotto, gli attacchi, la giunzione, l'innastro e ce la vi farà da giù. Ho capito. Vabbè. Grazie, adesso io mi assento. Se ci sei dopo, dai, così vi faccio una bella doccia. L'ho riposato, mi sono uscito da Duanzura. Se mi siete da voi, e se no a domani. Ma tutto alle 8 vai a mangiare, no? A chi mi devo fare nessuna. Poi a questo comunque, vabbè, dai, non c'è problema, a domani. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao.